Cosa facciamo? Cosa facciamo? Cosa facciamo, Pinolina? Cosa facciamo? Cosa facciamo? Thank you. hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola.